Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Un solco importante e c'era da proseguire su questa strada. Ci deve provare adesso Lewis Hamilton, gli concede l'esterno Nico Rosberg, se lo prende tutto Lewis Hamilton, non molla la presa Rosberg, ma non viene attaccato il contatto, di nuovo accompagnato fuori Lewis Hamilton che rientra come per prenderlo e danneggiato la anteriore per Nico Rosberg, incredibile, ancora una volta il contatto con l'ala rotta per Nico Rosberg che deve rallentare, Lewis Hamilton che passa. Che sto dicendo? Io non sto dicendo, non rispondo a quella domanda, io rispondo a quello che ho visto, il fatto, io ero nella lotta, ero sicuro di vincere la gara e è arrivato un po' lungo anche lui e poi io sono lì dentro e lui gira, basta, così tocchiamo e rompiamo la macchina. Pogba, Evra, Giroud, fuori Sissoko, arriva il pallone, Aldorsson non esce, lo staccio di testa e il gol del 2-0 inevitabilmente, Paul Pogba, occhio a Griezmann che scappa via, dorme l'Islanda, Griezmann, cucchiaio, 4-0, il piccolo diavolo manda all'inferno l'Islanda, la Francia domina, l'Islanda è sparita, poker dei galletti. Estratti da un weekend molto amaro che non dimenticheremo facilmente. 800240024 è il vostro numero verde per intervenire. Sono curioso di capire qual è il vostro umore due giorni dopo averci dormito sopra un paio di notti, se la prima ce l'avete fatta, quella di sabato. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, c'è qui con me Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao, il weekend dell'orgoglio. Sì. Non dell'amarezza, delle lacrime, sai, quelle boiate lì da due giorni, le notti insonni. Il weekend dell'orgoglio. Dell'orgoglio, anche ma dell'orgoglio non di dire, anche dell'orgoglio di dire che Zazza e Pellè sono due che hanno fatto il loro mestiere fino in fondo e lo hanno fatto bene. Sì, non tutti sono d'accordo o saranno d'accordo tra osservatori e critici. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Bene. Non siamo mai stati dei cuori teneri, chi ci ascolta lo sa bene, ma questa è stata una storia strana, questa dell'Italia all'europeo. C'è chi non manca di sottolineare che anche Donadoni finì fuori ai quarti di finale con la Spagna al top ai calci di rigore e fu giubilato. Ma ripeto, questo è un altro film ed è stato bello alla fine anche ieri vedere Buffon togliersi gli occhiali, infilarsi nella tasca dei jeans e buttarsi in mezzo alla gente. È un film che non avevamo mai visto, onestamente. Sì, però mi piace anche che ci sia qualcuno che si ricorda di Donadoni e del 2008, perché sicuramente in quella circostanza non ci fu la stessa benevolenza nei confronti di quella squadra e di quell'allenatore. Invece poi la storia ha dimostrato che l'Italia uscì contro i campioni di tutto, che stavano per aprire un ciclo e perse ai calci di rigore una partita per certi versi molto simile a quella di sabato. Quindi è giusto, secondo me, sottolineare questo. Esistono sconfitte a testa alta ed esistono sconfitte invece senza onore. Questa è la madre delle sconfitte a testa alta, quindi sicuramente, siccome siamo uomini e robot che segnano il risultato alla fine e che dicono bene se hai vinto, male se hai perso, siccome siamo uomini credo che ci dobbiamo togliere il cappello di fronte a questa squadra. Poi c'era anche un discorso sul punto di partenza che era molto basso, sulle aspettative che erano certamente molto inferiori, quindi però è vero che è successo anche altre volte in passato, per esempio in quel 2008, e che non si è usata la stessa benevolenza. Sì. Questo non ci sono dubbi. Sì, è un risultato comunque che va letto questo, e poi è chiaro che quante volte abbiamo visto negli ultimi due giorni quel gesto di Pellè prima di sbagliare il rigore, quel tiro di Zaza. I passettini di Zaza, che oggi vi racconteremo, non fa solo Zaza. Cioè, c'è un altro grandissimo campione che tira i rigori in quel modo lì, li sbaglia ogni tanto, perché ogni tanto li sbaglia pure, e nessuno si sogna dire che è uno sbruffone, un montato, uno che prende con leggerezza il momento, come invece è stato detto di Zaza in questi due giorni, o di Pellè che avrebbe tirato con leggerezza. C'è una differenza tra Zaza e Pellè, ma secondo me no, fanno tutti e due il loro mestiere. Uno tira i rigori come li ha sempre tirati, o quasi, ed è Zaza. L'errore fa parte della vita, e questo è indiscutibile. Io già ieri l'ho detto, lo ribadisco. La cosa che mi piace di meno di questa vicenda è che adesso Zaza e Pellè vengono considerati due nemici della patria da alcuni, non certo da noi. Mi sembra una stronzata mega galattica, francamente. Sono dei giocatori che hanno sbagliato un gesto tecnico di una partita dopo aver dato tanto, soprattutto Pellè ha tanto nelle partite perché è stato impiegato con più regolarità, e che non meritano assolutamente nessuna onta particolare, anche perché poi per questo hanno sbagliato pure Darmian e Bonucci, quindi voglio dire, almeno per far condicio. Quello che secondo me è dei quattro l'errore un pochino più grave è quello di Pellè, perché Pellè si è preso un rischio ulteriore, sappiamo che ormai le telecamere arrivano ovunque, ha provocato il portiere avversario, che è chiaramente una cosa che se poi avesse segnato noi abbiamo passato 10 giorni a dire che per battere la Spagna, per battere la Germania, bisognava andare oltre la normalità ed entrare nella straordinarietà di un duello tra Pellè e Neuer. Ci sta anche la provocazione, e poi ci sta anche che ti capita di sbagliare. Si è sentito di fare così, altrimenti poi tu la Germania non ci arrivi al 18° rigore. Se ti limiti a fare le cose normali anche durante i 120 minuti di tempi regolamentari e supplementari, tu non ci arrivi ai rigori, al 18° rigore con la Germania. In ogni caso, da sottolineare anche che i loro senatori hanno sbagliato dei rigori, e tu vedi sbagliare Schweinsteiger, Müller e Özil e dici vabbè, come facciamo a perdere? Invece è andata così. È chiaro che Schweinsteiger, Müller, Özil di partite così, di rigori così importanti ne hanno tirati tanti nella loro carriera. Quanti ne hanno tirati i nostri? Pochissimi. Torniamo a parlarne dopo il traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono emotivamente molto coinvolto, forse ancora di più oggi rispetto a ieri, perché realizzi, no, che è finita. C'è la delusione per questa partita, per questa eliminazione. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, ecco. Però ecco, sicuramente non è un addio, sarà un arrivederci questo. Arrivederci a quando non si sa, queste le parole di Conte, ma stavamo parlando di quei rigori. 800240024 faremo ovviamente anche con voi, stiamo parlando di questa avventura complessivamente positiva della nazionale italiana, anche se oggi vanno di moda i criticoni. Ma ha ragione Maurizio Crosetti quando scrive oggi su Repubblica che i rigori sono tutt'altro che una lotteria, sono un esercizio tecnico e mentale, sono un uno contro uno calcistico crudele. Ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno a tutti voi, ciao. È un uno contro uno crudele in cui la squadra in quel momento non esiste più, esiste uno contro l'altro, no? Sei lì da solo, metti giù la palla e poi hai ragione quando dici che li guardi negli occhi e più o meno capisci già come va a finire il film. Di solito sì, penso ai rigori di Roma-Liverpool, siamo vecchi, ce li ricordiamo, quando Graziani parte in quel modo... Tu già hai capito più o meno dove andrà il pallone, ma persino Cabrini che guarda da una parte e poi il pallone va dall'altra, Cabrini che non è paragonabile a nessun livello, soprattutto a livello tecnico, con quelli che possono sbagliare i rigori oggi, ma almeno nessuno era stato così gaglioffo, insomma. Nessuno ha fatto il furbo, avevano sbagliato e basta, hanno sbagliato tutti i grandi della storia, non è che Roberto Baggio lo giudichi per Pasadena, ma in quel momento sì. In quel momento il suo gesto tecnico fu un gesto tecnico sbagliato per una posizione del corpo, per stanchezza, certo non per cialtroneria. I grandi non sbagliano da cialtroni, sbagliano e basta, i piccoli sbagliano da cialtroni. Ma Maurizio, ma secondo te c'è cialtroneria nel rigore di Zaza? Cioè, il dibattito è aperto. Oggi qualcuno è andato a ripescare i precedenti 4 rigori tirati da Zaza e Zaza li tira così, più o meno, segnandoli e sbagliandoli. Così. Cioè, li tira così. È una rincorsa che fa Pogba, ad esempio, l'altro grande campione che tira i rigori con questi passettini. Sì. Poi il problema è che Neuer non si muove mai e alla fine Zaza è andato in confusione. Nella vita uno dovrebbe sapere quello che si può permettere, no? Cioè, se tu hai consapevolezza di essere Zaza, poi è vero, tra virgolette, sai di essere anche quel calciatore ignorante che non ha regole, che ha strappi, che ha scossoni, che è imprevedibile, che è molto generoso, che ha grandi qualità, perché in questi anni non è che ha fatto solo il Saltelli di Fred Flintstone, Zaza, se no non sarebbe arrivato lì, non sarebbe arrivato alla Juve. Però nel momento in cui hai di fronte il più grande portiere del mondo, non gli fai i saltelli, perché sai, devi ricordarti chi sei in quel momento. Cioè proprio in quel momento, visto che sei uno contro uno, tu devi sapere che lui è Neuer e tu sei Zaza. Perché se pensi di essere non si sa chi, poi finisci in questa maniera. E poi certo, è facile dirlo dopo, poi poveretto pure lui, cioè starà malissimo adesso. Però quel gesto lì se lo poteva proprio risparmiare. Cioè più lo vedo e più mi incazzo, scusate se ve lo dico. Ma più lo vedo e più non mi passa questa roba. Sì, e l'abbiamo visto già un sacco di volte. Ogni 5 minuti passa su qualche televisione. Pier, Pardo, va, in queste ore però insomma va di moda l'opinione critica. C'è chi dice o scrive o pensa che il Belgio era fragile, acerbo. La Spagna era una squadra da rottamare e con la Germania siamo andati a casa. Io dico che siamo stati anche per colossale sfiga l'unica squadra ad aver affrontato tutte queste grandi. Ad esempio la Francia è in semifinale senza aver ancora giocato una partita con una grande. Sta giocando l'Europa League la Francia. Questo fa parte della vita, perché la Francia vincendo il girone si era comunque messa nella parte dura del tabellone, poi l'eliminazione dell'Inghilterra ha cambiato il suo destino nei quarti di finale. E stamattina io penso che in Inghilterra in parecchi si saranno svegliati dicendo "What have we done?", che abbiamo fatto per la seconda volta dopo il Brexit, perché insomma con tutto il rispetto e la magia della favola islandese, ieri sono emersi anche i limiti di questa squadra, che rimane secondo me una delle grandi sorprese di questo europeo. Ma insomma io penso che Hodgson si sia fatto un po' di domande, soprattutto dopo la partita di ieri sera. Io su Zaza penso che quell'errore lì sia frutto della confusione mentale in quel momento. Non credo che sia un errore di spaccoteria o di... Secondo me lui è andato proprio in confusione. E secondo me Zaza è stato alla fine anche uno dei pochi errori stati di Conte, ovviamente con senno di poi ci mancherebbe altro. Insomma, ci stava quella sostituzione, lui l'ha fatta. Zaza evidentemente è uno che aveva provato i rigori, quindi era giusto mandarlo in campo. Col senno di poi si potrà dire che uno che non ha toccato un pallone in una partita forse sarà più freddo di tutti, ma soprattutto no? perché ripeto, non sono giocatori questi che hanno giocato tante partite di questo tipo, che hanno avuto la possibilità di tirare tanti rigori di questo tipo. Ad esempio mi pare che Darmian fosse al primo in carriera. Era il primo rigore della sua carriera, quindi, in partita ufficiale. È vero che di là hai sottolineato giustamente, hanno sbagliato dei mostri abituati, sì, come Müller, come Schweinsteiger, come sì, quindi poi alla fine spesso la storia dei rigori, non c'è un grande della storia del calcio che non abbia sbagliato. Beh, basta una settimana fa Messi si è fumato la Coppa America. Comunque noi sottovalutiamo un dato nella sfiga di Conte in questo europeo. L'altra sera sono venuti a mancare al momento dei rigori Candreva, Eder e De Rossi, due erano fuori dall'inizio. Questi tre insieme sono quelli che hanno tirato tre quarti dei rigori di tutta la rosa presente all'europeo dell'Italia, cioè erano gli unici che avevano tirato chi 15, chi 20 rigori, tra l'altro anche con medie molto alte, perché Eder ne aveva fatti 23 su 25, e noi abbiamo dovuto fare i rigori così. Per questo dico, dobbiamo anche accontentarci di quello che abbiamo visto e ringraziarli, anche guarda, se poi hanno sbagliato. Noi siamo arrivati in una condizione psicologica secondo me migliore della Germania ai rigori, perché comunque nonostante tutto, al di là del fatto che in un quarto di finale all'europeo tutti hanno pressione, è ovvio che tutti abbiano pressione, è impossibile non averla, però fra noi e la Germania comunque una piccola differenza c'era. I tedeschi sono favoriti di questo europeo, noi eravamo outsider. I tedeschi erano sicuri di massacrarci alla vigilia, noi sì, sicuri a parole, perché poi hanno giocato come l'Italia, hanno giocato a specchio dell'Italia con l'Italia, tant'è vero che sono stati criticati anche sui giornali tedeschi, ma come, vi siete adattati a loro? I tedeschi avevano una dannata paura di questa partita. Maurizio Crosetti, tu invece cosa rispondi ai critici ad ogni costo di questa nazionale? Rispondo che abbiamo fatto molto più di quello che abbiamo hanno, perché poi anche i verbi bisogna coniugarli, cioè abbiamo no, noi stavamo a guardare, loro hanno fatto, erano soli, hanno vinto, si sono battuti, hanno superato limiti di ogni tipo, quindi più di questo davvero non potevano fare. Poi certo ti ritrovi con una Germania che ti sbaglia con tre mostri, tre rigori in una serie di 5, tu ne anzi una serie poi di 18 in realtà, di 9 più 9, e tu ne sbagli 4 e lì davvero non ti ricapita forse mai più nella vita. Però non è questo il nostro europeo, cioè ne abbiamo parlato, l'europeo dell'Italia non è l'errore di Zaza, l'errore di Pelé, un po' gli infortuni che ci hanno ridotto in quello stato. L'Europa dell'Italia è un torneo, è stato un torneo vissuto benissimo, in condizioni difficili, con della materia grezza unita a materia nobile, non tantissime si sapeva, ma con quella materia grezza Conte ha trasformato quasi tutti in materia nobile, nel senso che poi alla fine più di questo che si poteva chiedere no. alla nazionale. Noi siamo questi, non siamo molto di più, e forse lo ha rivelato proprio il gesto finale dei rigori, perché allora lì sei esperienza, sei classe, poi magari sei Messi e lo sbagli lo stesso, però arrivi all'epilogo con una storia personale anche diversa. Lì sono andati i giocatori che abbiamo in questo momento, cioè in questo momento la nazionale ha fatto molto più di quello che pensavamo e molto più di quello che è il calcio che sta rappresentando, tant'è questo lo vediamo nelle coppe. Adesso sarà molto difficile perché il momento continua ad essere un momento difficile, galvanizzato da tutta una serie di circostanze, dal mestiere, da Conte, da una certa psicologia che ci fa essere bravissimi nell'emergenza. Però adesso noi non dobbiamo puntare sull'emergenza per fare i miracoli ogni volta, noi dobbiamo ricostruire una nazionale, un nuovo ciclo con una qualificazione mondiale molto difficile, con materiale tecnico umano che è quello che è, quindi non sarà per niente facile per Ventura, ma questo si sapeva sin dall'inizio. Sì. Ultima cosa, Maurizio, Tavecchio dice di aver ereditato le macerie brasiliane e di aver tracciato un'autostrada su cui adesso l'Italia potrà correre. Tavecchio mi sembra che abbia molta autostima, se parla così di se stesso rappresenta bene una nazionale che sull'autostima ha fatto molto in questo europeo. No, io credo che lui abbia avuto sicuramente il merito, il tempismo e anche l'intuizione economica per creare quell'architettura di contratto, molto sponsor, il resto Federcalcio, per arrivare a Conte che ha dato davvero il valore aggiunto a questa nazionale. Questo sì, che abbia aperto un'autostrada, un'autostrada oggi dove ci sono ancora tante buche, sì. È un'autostrada, bisognerà un po' ritinteggiare, ripassare, i guardrail sono un po' ammaccati, le strisce sono un po' non si vedono tanto bene, la mezzeria senza arrivare alla Salerno-Reggio Calabria, siamo ancora alla Salerno-Reggio Calabria, anche se poi va rivalutata. Io l'ho fatta seguendo il Giro d'Italia, è peggio la Milano-Torino della Salerno-Reggio Calabria, ormai diciamolo, ecco, strada in diretta diciamolo pubblicamente. Grazie Maurizio, ciao. Maurizio Crosetti. Da dove deve ripartire Ventura, Pardo, prima di fermarci per la borsa? Perché sicuramente abbiamo pensa che può provare ancora per due anni a essere viva e a darci dei punti di riferimento. Abbiamo un grande giocatore a centrocampo che è Verratti e un altro ottimo giocatore che è Marchisio, che non hanno potuto partecipare a questo europeo. Abbiamo degli attaccanti sferri di buon livello e ci manca completamente la punta centrale, purtroppo non la possiamo comprare. Insomma, la situazione non è brillante, sono d'accordo con Cross sul fatto che ci sono dei rischi adesso, però qualcosa a disposizione Ventura ce l'ha e quindi cerchiamo di essere ottimisti. Però certo, è una fase non facile, anche perché la formula delle qualificazioni al mondiale non è No, è difficile, ma sai cosa ti dico? Secondo me, non so se condividete, poi ne parleremo dopo la borsa, se ne avete voglia, anche con gli ascoltatori, 80024, 0024. Adesso Ventura dovrebbe farsi quasi guidare dal nucleo storico di questa nazionale, che ha ancora voglia di essere protagonista, nonostante le carte di identità non ci diano grandi emozioni, dovrà fare un po' quello che ha fatto forse Allegri nel dopo Conte, cioè ripartire da quello che ha in mano e farsi quasi guidare da questo gruppo di giocatori. Ci fermiamo per sentire le informazioni dai mercati finanziari e poi torniamo insieme. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Sono Enrico Ruggeri e anche questa settimana ho delle storie molto interessanti a Il Falco e il Gabbiano. uno sportivo che ha cambiato la storia del mondo, Mohamed Ali, e noi raccontiamo sua figlia che fa la pugile come il padre e non perde neanche un incontro. Ha vissuto la storia del rock dallo stesso palco di Jimi Hendrix, Noel Redding. Una vita libertina e dadaista, la baronessa Elsa von Freytag Loringhoven. Ha inventato la suspense nel cinema, ma è sempre stato un uomo di fine umorismo, Alfred Hitchcock. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Si ricomincia! Tutti convocati. Pelé, Pelé, concentrato, Pelé. Dai! Dai, Pelé! No! No! Malissimo, no! Ti chiami Graziano Pelé, stai a tirare i rigori contro uno dei più forti portieri del mondo e arrivi là, ti dici datino centrale, faccio lo scavetto e poi apri di fuori, esci da te un metro e mezzo la palla. No, io già stava là da un quarto d'ora. No, ieri stava, quando lui gli ha detto così, no, io già stava sulla destra, stava al telefono, non si vedeva, ma stava al telefono con la moglie. Zaza, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è certo da queste cose che si giudicano. Come cazzo prendere in corsa, che cazzo? She's a maniac, maniac on the floor. Quell'altro, Zaza, sei entrato solo per tirare, non è che dici sei entrato per tirare un rigore, ti sei messo a ballare il tipi di video, tu tu tu tu tu tu tu, boom, l'ho contato, ha fatto 18 passi, 18 passi, non li fai in tutto il meneito, si balli il meneito, 18 passi in tutto il meneito, non li fai. Il meneito, il meneito, il meneito, il meneito, il meneito, il meneito, iai. Quello che mi perprime di più è il rigore di Zaza. Che cacchio voleva fare? Che il rigore di Zaza più di quello di Pelé è diventato subito virale. Perché si è messo a fare quella corsetta? Che cosa fai, Zaza? A parte ci ha messo un'ora per tirare un rigore che l'ha sparato in cielo. Vabbè, come sappiamo il popolo dei social si è scatenato su Zaza e Pelé. Queste sono alcune delle cose che tutti sono tiratori di rigori, tutti, tutti tiratori di rigori. Tutti, tra poco Giovanni Capuano vi dice una statistica estremamente interessante e Pierluigi Pardo è collegato con noi. Ordine di servizio, abbiamo un sacco di ascoltatori, ci stanno bombardando di telefonate, quindi andiamo rapidamente con... Beh, fatalmente alcuni di loro, ma tanto siamo qua tutti i giorni. Nicola, buongiorno. Buongiorno, sono Nicola da Padova. Sì, dica. No, volevo solo dire che intanto sono contentissimo comunque della nazionale perché ha fatto un grandissimo europeo. Nessuno probabilmente all'inizio si aspettava una nazionale che battesse la Spagna, che battesse il Belgio, che giocasse così con la Germania. Dopo io comunque gioco a calcio in categorie minori e i rigori è completamente un'altra storia. E tante volte anch'io li ho tirati durante la partita e li segni, è più facile, hai del tempo per recuperare, ma tirare i rigori dopo 120 minuti non è facile per nessuno e non è semplice anche emotivamente, dunque è anche comunque una giustificazione perché tanti ragazzi, come avete detto prima, Darmian, non aveva mai tirato rigore nella sua vita, sì. E dunque non è una cosa così semplice tirare un rigore ai quarti di finale. No, no, è una cosa difficilissima. Magari io in linea di principio ho il massimo rispetto per tutti quelli che prendono responsabilità, acchiappano la palla e vanno a tirare il dischetto, a metterla sul dischetto. Poi è chiaro che qui siamo arrivati alla fine della, eravamo arrivati alla fine della rosa, quindi fatalmente hanno dovuto tirarli quelli che erano rimasti. Ma Giovanni, guarda, io sposo quello che scrive Pierotto, che perché se uno è abituato alla rincorsa in quel modo deve cambiarla contro il miglior portiere del mondo, perché è un mistero, ma il mondo dei social ha deciso che quella roba lì fa ridere con i 18 passettini e quindi Zaza verrà ricordato per sempre, no? In quella maniera. No, la statistica, Pier, se ti interessa, è questa: Candreva, De Rossi e Derli, abbiamo citati prima, insieme in carriera avevano tirato prima di sabato e non c'erano, 65 rigori con l'85% circa di realizzazione. Tutti gli altri 20 della rosa insieme, ne avevano tirati meno, 53, meno di quei tre lì, e gli 8 che hanno tirato, che sono andati sul dischetto contro la Germania, insieme ne avevano tirati 30. 30, a proposito di abitudine. Ma infatti stavo dicendo prima che noi siamo arrivati meglio della Germania dal punto di vista emotivo ai calci di rigore. Tra l'altro anche la Germania ha fatto un discreto ciapanò, perché poi insomma quando Schweinsteiger va sul dischetto col quinto rigore, che se segna vince, sbaglia, insomma anche la Germania ha avuto due volte la situazione di vantaggio e l'ha buttata via durante quei rigori. Detto questo, non ci consola minimamente questa roba, però è un dato oggettivo. Sicuramente noi siamo arrivati con una migliore condizione psicologica rispetto ai tedeschi, ma con una peggiore condizione tecnica. Come diceva prima Crosetti, è anche un lavoro tecnico, quindi che coinvolge gli aspetti appunto sulla abilità nel calciare e anche sull'abitudine ad avere una pressione di questo tipo. Ecco, sicuramente da questo punto di vista noi siamo arrivati con una squadra abbastanza povera. Da questo punto di vista, De Rossi non era un dettaglio, è forse un rimpianto, però nessuno di noi sa esattamente come stava, quindi se poteva avere senso mettere lui invece di Zaza. Candreva comunque è uno che i rigori li tira, insomma. Sicuramente noi siamo arrivati un po' a pezzi a quei tiri da dischetto. Eder l'avevamo perso durante la partita per le condizioni fisiche, per cui insomma c'è poco da girarci attorno. Dai, tecnicamente noi siamo arrivati male ai rigori, emotivamente siamo arrivati meglio dei tedeschi e abbiamo perso di uno. Guarda, arrivo a dirti che noi abbiamo fatto un miracolo anche ai rigori, cioè eravamo talmente inferiori anche ai rigori che abbiamo fatto il miracolo di arrivare al diciottesimo rigore. Arrivare al diciottesimo, complice anche il fatto che loro di miracolo non l'hanno fatto. Di sicuro. Avevamo un portiere anche noi, non solo loro, e loro è sicuramente il migliore. La statistica è quella: 30 rigori, tutti quelli che hanno calciato. Insomma, non si compra sul mercato nemmeno l'esperienza, l'attitudine a giocare queste partite, a tirare questo tipo di calci di rigore. Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, io voglio dire questa cosa, mamma mia, ho un ritorno pazzesco in cuffia, aspetti che, ecco, sì. Adesso riesco. Dunque, intanto faccio i complimenti alla Nazionale perché hanno fatto cose egregie, veramente incredibili, quindi un gruppo fortissimo, anche se diciamo a livello di qualità non ne avevamo molta. Però ci sono due cose che mi stanno un po' nel gargarotto, relativamente ai rigori. Questo non sono d'accordo con Giovanni Capuano, con cui di solito invece sono quasi sempre in sintonia. Stavolta no, perché su Zaza... Io ritengo che, anzi, non do la colpa al giocatore in questo caso, ma do la colpa proprio ad Antonio Conte, secondo me. Perché fare entrare un giocatore a freddo al 119esimo minuto, che non ha giocato mai, quindi freddo, e non ha confidenza con la palla, che non l'ha neanche toccata in quel minuto, eccetera, fargli battere con rigore decisivo, secondo me è un azzardo. Forse andava fatto entrare un po' prima, e quindi farlo un po' scaldare, farlo un po' correre in campo con gli altri, magari lo tirava meglio quel rigore lì. Ma entrare a freddo e battere un rigore così per me Difficile. È una follia, a mio avviso. Questo è, al limite potrebbe entrare forse De Rossi a questo punto, che De Rossi è non già ce un la rigorista, faceva. Ne ha battuti tanti. Sì, sì, no, questo l'abbiamo pensato in molti, ma De Rossi non ce la faceva, tanto che l'ha detto, non era possibile recuperare, non stava bene, e quindi... probabilmente non era neanche nelle condizioni fisiche di andare a tirarlo quel rigore, soprattutto a freddo. Sì, noi dimentichiamo anche cosa sono stati gli ultimi 5 minuti del supplementare con la Germania nella nostra tre quarti, e due o tre che non correvano più, Parolo, Giaccherini, bloccati dalla fatica. Ora si fa presto a dire Zaza doveva entrare a metà del secondo tempo supplementare, così si scaldava per il rigore, però noi ci siamo arrivati col fiato corto lì in fondo. Però indubbiamente posso dirti è proprio il regno dell'aleatorio, cioè Zaza entra al 120esimo e giustamente oggi noi diciamo Conte ha sbagliato a farlo entrare, avesse segnato il rigore gli avrebbe fatto un momento. Pellè provoca Neuer in quel modo, e sicuramente passa a me la sciocchezza più grande in assoluto dell'intera serie dei rigori, la cosa è più grave a differenza di Zaza, che essenzialmente si è solo incartato, ma voglio dire, non è che ha fatto niente fuori dalle righe, e ha fatto un gesto che se avesse segnato l'avremmo celebrato come il cucchiaio di Totti, no? Come un esempio della personalità italiana di fronte al migliore portiere al mondo. Allora è chiaro che lo sport è questo, no? Lo sport alla fine è il risultato che fa opinione, quindi è giusto che oggi qualcuno se la possa prendere con Pellè, con Zazzo o anche con Conte sul fatto che ha fatto entrare Zazza. Però rendiamoci conto di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una cosa che è un gesto tecnico che dura una frazione di secondo e che diventa il tutto, cioè diventa la sintesi di un intero europeo, di una nazionale. Sì, sì. E quindi, ripeto, io sono sicuro che se Pellè avesse segnato il rigore, vabbè, sarebbe diventato un idolo, sarebbe stato il contrario di quello che abbiamo sentito sui social. Aldo Serena, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedi voi quanti rigori aveva tirato prima di andare sul dischetto a Napoli nel 1990? Una decina. Avevo cacciati, eppure non eri uno specialista, non ti consideravi uno specialista? No, assolutamente no, perché io ne ho tirati pochi. Quando li ho tirati era in casi speciali. Devo dire che sono riuscito a rimanere freddo e lucido perché sapevo di tirarlo nel finale di Coppa Intercontinentale Juventus contro l'Argentino Juniors ai Mondiali 90. Mi ero rilassato, mi ero seduto a cercare di tifare per i miei compagni, che invece poi sono stato fra quelli che sono stati i protagonisti in negativo. Cosa puoi dire a Zazza e a Pellè oggi? Come valuti questi due errori che sono sulla bocca di tutti e come si sentono allora, adesso? Io penso che siano state scelte criticabili, non da me, perché io ne ho sbagliato uno anche più importante, che in quei momenti l'aspetto emotivo è fondamentale. Io sono una persona abbastanza appunto emotiva e quindi ho avuto una reazione, non potevo certo guardare il portiere, ho cercato di mirare, di cacciare forte, di angolare più che potevo il tiro, poi non l'ho fatto particolarmente e il portiere me l'ha parato. Loro hanno reagito in quel modo, ecco, io non mi sento di criticarli perché so che in quei momenti succedono cose strane anche nella propria testa e quindi si possono avere reazioni di vario genere. Loro hanno fatto così e sbagliando hanno, come detto prima Pier, mi sembra, hanno il limite a volte è veramente sottile fra essere degli eroi o essere delle pippe, e in questo caso è successo così a loro. Aldo, ti chiedo un attimo di pazienza, traffico, 30 secondi, torniamo subito. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Tutti convocati. Allora, lo chiedo a tutti e tre, Aldo Serena, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. Esiste una critica che si può muovere a Conte nella gestione di questa partita o nell'europeo intero? Comincia Pardo. Allora, guarda, io forse, ma ripeto, siamo bravi, premesso che il voto va a Conte è altissimo, forse mi sarei giocato Insigne un filo prima. Però in questa partita? In questa partita qui me lo sarei giocato subito dopo il gol, pensavo lo stesse mettendo e passando il 3-4-3, poi il pareggio è arrivato 6-7 minuti dopo, quindi ci stava di tornare al 3-5-2, me lo sarei aspettato magari all'inizio del primo supplementare invece che del secondo. C'erano delle incognite fisiche che riguardavano Chiellini e Sturaro in particolar modo, quindi è stata sicuramente una scelta non tecnica ma di pura conservazione, no? di prudenza, perché non sapeva bene esattamente a che cosa andava incontro. Aldo, che è sempre persona molto, molto ispirata e molto sensibile, se mi posso permettere, mi ha fatto pensare a questa cosa, che veramente questo è lo sport, cioè in nessun altro aspetto della vita umana, la politica, lo spettacolo, anche altri lavori che siano che portano così soldi, gloria, fama, stress, ti sento più così clamorosa, basata su una frazione di secondo, un gesto tecnico, un centimetro, un pallone che rimbalza da una parte o dall'altra, non esiste da nessun'altra parte. Sì, certo. La vita di un capo di Stato, la vita di una rockstar, una rockstar può prendere una stecca durante un concerto, ma ha una sua storia basata su quella roba lì. Qui ci sono veramente delle situazioni che sono solo dello sport, certo, che disegnano un confine enorme però bisogna anche essere bravi quel confine a spostarlo noi. Cioè, ti faccio un esempio, qualcuno ricorda, ha scritto, ma Bonucci il suo rigore lo ha segnato, no, lo ha sbagliato, glielo ha parato Neuer, ma Bonucci, che invece si è preso la responsabilità durante i 90 minuti di rimetterci in partita su calcio di rigore, nella sua carriera aveva tirato lo stesso numero di rigori di Zaza, con lo stesso esito 3 su 4, e tra l'altro aveva già sbagliato un rigore decisivo nella Confederation del 2013. Invece Bonucci è quello lì, è un monumento uguale, anche se ha sbagliato questo calcio di rigore, magari tirandolo in maniera un po' più normale rispetto a quelli di Pellè. Ma infatti la vita di Aldo Serena e l'immagine di Aldo Serena rimane strapositiva nonostante quel rigore sbagliato, come la vita di una leggenda come Baggio rimane strapositiva nonostante quel rigore sbagliato. Però io quello che voglio dire è veramente questa roba esiste solo nello sport, perché comunque ha ragione Barzagli, poi noi possiamo girarci attorno e sicuramente ci ricorderemo, ci saranno i documentari, le sfide, fare i servizi di Chitaca, porteremo il massimo rispetto e il massimo onore per questa nazionale che ci ha fatto comunque emozionare. Però questo treno non ripassa più nella testa di Barzagli, di Bonucci, tutti quelli che hanno magari qualche anno in più. Questo treno non ripassa più, un'altra occasione come quella non ripasserà. Aldo Serena non giocherà mai più una semifinale mondiale in casa contro l'Argentina a un passo dal titolo mondiale con andando sul dischetto, non succede più. E questo è lo sport, ed è terribile e magnifico al tempo stesso, certo. Perché poi alla ci fine vuole, e come dicevo prima, massimo rispetto per chi si prende una responsabilità di questo tipo. Volevo chiudere con Aldo Serena. Aldo, c'è una critica, che la domanda è quella di cui sopra, che si può muovere a Conte nella gestione di questa partita dell'Europeo? Ma guardi, io sono d'accordo ancora una volta con Pierre, proprio guardandola poi avevo citato anche nel momento in cui era in svantaggio l'Italia con il 3-4-3, mi aspettavo che Insigne entrasse. Insigne perché è il giocatore che ha la qualità tecnica, che aveva dimostrato anche in frazioni corte di partita di poter incidere, poi soprattutto contro difensori anche molto alti, alcuni macchinosi come quelli tedeschi, e lui poteva forse essere un'arma in più per i nostri. È entrato sul secondo, solo ha avuto un'opportunità per 15 minuti quasi scarsi, e ha fatto anche qualcosa, insomma. Ecco, quello. Per il resto devo dire che Conte è stato fantastico, perché ha fatto giocare i nostri in maniera splendida, ha valorizzato al massimo le qualità dei nostri giocatori, e anche, non ultima, la scelta di Parolo come centrale davanti ai difensori, che a mio avviso non tutti avrebbero rischiato. Lui l'ha fatto, ovviamente a ragion veduta, perché ne aveva parlato, aveva provato e ha trovato ancora una volta la soluzione adatta. Sì, non dimentichiamo che con l'assenza di De Rossi abbiamo perso praticamente due giocatori, no? De Rossi, esatto, stesso, che era fondamentale, e Parolo nel suo ruolo, che con Giaccherini era uno di quelli che facevano più male agli avversari con i loro inserimenti. Quindi è stata anche quella una... Così, una delle tante piccole grandi sfide che questa campagna europea ci ha dato. Grazie Aldo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Aldo Serena. Giampiero, poi ci fermiamo per il GR, ma poi continuiamo, ragazzi. Giampiero, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. A lei. Siamo da Torino e volevo andare un attimo controcorrente per quanto riguarda Conte e il contismo. Analizzando, nella mia opinione, analizzando semplicemente le prestazioni, io, a parte la Spagna, dove abbiamo giocato bene e comunque siamo arrivati a fare il 2-0 di nuovo al 90esimo, io altre partite dove l'Italia ha imposto il contismo, il gioco di Conte, io non me le ricordo. Beh, col Belgio? Col Belgio abbiamo rischiato di pareggiare al 90esimo, dopo una carambola nell'area piccola è finita nelle braccia di Buffon casualmente, e dopo abbiamo fatto il 2-0 al 93esimo. La Svezia e l'Irlanda sono tecnicamente superiori a noi? Non penso. No, eppure con l'Irlanda non fa testo. Ok, ma con la Svezia, possesso palla è a favore della Svezia. Abbiamo vinto 1-0 all'80esimo, all'83esimo con la Svezia. Quindi, cioè, io ho visto tante partite dove l'Italia ha giocato un quarto d'ora finché ha fatto tante partite, ha fatto il gol, è andato in vantaggio, e poi ho visto tanto di trapattoni, sinceramente, inclusa la Germania, dove il secondo tempo l'Italia non ha più giocato. Parolo, un grande incontrista, io non ho visto fare un lancio, un passaggio, un'azione che partiva da sui piedi. Ma altrimenti non sarebbe Parolo, sarebbe no, c'è anche un amico che sarebbe, ha scritto per chiedere, dateci le statistiche del possesso palla della Germania. La Germania ha avuto il 62% con noi di possesso palla, però ve lo do un altro dato. Ha tirato in porta come noi in Italia e Germania, 3-3, e i tiri fuori ne abbiamo fatti di più noi, perché noi facciamo un calcio diverso. Ma del resto, Marchisio è a casa, Verratti si sta curando la pubalgia. Di che cosa stiamo parlando? No, io questo penso che la tua ultima frase è perfetta, nel senso che che ha ragione l'ascoltatore. Insomma, diciamo la verità, questa squadra qui adesso a me sta simpatica perché si chiama Italia, Italia la nostra, ma non è che fosse il più bel manifesto tecnico estetico del calcio mondiale. Questo va detto e va riconosciuto. Conte ha fatto una scelta che è stata una scelta soprattutto di compattezza e di forza, e secondo me questa scelta l'ha fatta molto bene, è andato molto bene. Poi sicuramente, l'abbiamo detto mille volte, qualcos'altro tecnicamente di interessante poteva provarlo, l'ha lasciato a casa per non avere dubbi, per impostare invece un lavoro basato sul gruppo e sulla solidità. Sicuramente sì, sì. Buonaventura e Giorginio, l'abbiamo detto mille volte, erano due giocatori che potevano essere utili. Sì, ma non erano quelli però, che comunque ti cambiavano la squadra, cioè non si può, cioè le scelte sono state queste, ma non ha, come abbiamo detto molte volte anche in questo caso, non ha lasciato a casa Pelé e Maradona. Pier, ci sentiamo domani, oggi. Assolutamente. Grazie per Luigi Pardo. Ciao. Giovanni, stai qui. Giovanni Capuano, dopo stai GR. Qui. GR, poi torniamo. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Sono Marta Cagnola e vi aspetto con il sabato del villaggio ogni sabato alle 15. Sono Daniele Bellasio, poi alle 17 arrivo anch'io e provo a rovinarti l'ultima ora del sabato del villaggio con Radio Q. I liberi consigli per il fine settimana e tutto il meglio e il peggio della rete tutti i sabati alle 15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Domani riprendiamo a parlare con gli ascoltatori, poi c'è anche chi gli europei li ha guardati con gli occhiali del tifo e allora poi scrive via WhatsApp la peggiore Italia a memoria, almeno basta celebrare Conte. Ma questi sono messaggi da tifosi, ovviamente, di campanili diversi da quello juventino. Intanto diamo anche una notizia, e cioè che Rizzoli non farà la finale dell'Europeo. È stato designato per Germania-Francia, quindi farà la semifinale. Eriksson, lo svedese, farà l'altra semifinale tra Portogallo e Galles. E a questo punto è possibile che la finale dell'Europeo la faccia l'inglese Clattenburg, che sì, è quello che ha arbitrato la finale di Champions League di San Siro fra Real che e era uno degli indiziati. Che era uno degli indiziati insieme anche a Rizzoli. Insieme a Rizzoli. Che insomma aveva tutte le possibilità e le carte in regola, compresa l'eliminazione dell'Italia, purtroppo. Sì, sì. Per andare a farsi la finale dell'Europeo e invece non si l'ha fa fatto. Una semifinale di altissimo livello, forse anche più importante rispetto alla finale, sì, la, poi, la finale anticipata, forse farà la vera finale e tra l'altro anche quella più difficile, perché la cosa che è piaciuta molto di Rizzoli in questo europeo era stato l'approccio di Francia e Irlanda, quando con quel rigore agli irlandesi dopo pochi minuti aveva comunque dato il segno di non subire la pressione ambientale. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Allora, d'accordo con voi che insomma l'Italia ha fatto molto meglio di quanto si pensasse, quindi questo va riconosciuto, e chi avrebbe detto che avremmo giocato alla pari con la Germania perdendo i rigori. D'altra parte, secondo me però noi italiani dobbiamo non essere troppo esaltati o troppo negativi e dovremmo imparare dagli errori, quindi comunque farsi qualche domanda e darsi qualche risposta perché i rigori vengono tirati in un certo modo va fatto per il futuro, visto anche che il passato non è particolarmente glorioso. In tal senso volevo ricordare come tirava i rigori il mio mito di quando ero bambino, Agostino Di Bartolomei, forte al centro della porta, ricordo bene. Il 90% entravano. Allora, per carità, Zazza e Pellelli tireranno sempre in quel modo, ma in un momento cruciale come quello, con una tensione molto maggiore di qualsiasi altro rigore che hanno tirato in vita loro, chissà se prepararsi a una rincorsa più semplice, dritta, e tirare forte al centro o più o meno al centro sarebbe stato meglio. E quindi insomma, ecco, magari questo andrebbe tenuto presente. Peraltro mi pare che i rigori di Barzagli, Giacchini e Parolo siano stati tutti più o meno centrali, nemmeno troppo forti, perché Neuer si buttava decisamente da una parte o dall'altra, sì, quasi sì, sempre. È chiaro che l'errore di Darmian non è tanto grave, perché è un errore, ci ha provato per la prima volta in carriera, come ricordava Giovanni prima. Ha sentito le cifre di, cioè, quanti rigori hanno tirato i rigoristi dell'Italia di sabato sera in tutta la loro carriera e tutti messi insieme? 30. Mentre i tre rigoristi principali dell'Italia erano due rotti in panchina e l'altro che si era fatto male, tutti e tre rotti in panchina. Quindi poi ha detto prima bene Aldo Serena, in quei momenti non sai che cosa gira nella testa di un giocatore, le reazioni possono essere strane, strampalate, diverse eccetera, e non c'è allenamento che tenga, ne puoi tirare 50 ad ogni allenamento, poi il momento della, della verità è quello lì, è ed è profondamente diverso rispetto al rigore tirato in allenamento. Giulio, buongiorno. Buongiorno. Io non sono per niente tifoso, però la nazionale si deve vedere, e veramente sabato sera mi sono arrabbiato, 1, 2, 3, 4 errori, mi è sembrato troppo. Tra l'altro ieri ho letto Gianni Mura, non sono d'accordo con lui, che diceva andato al massimo. Ho letto Bonucci che dice siamo una squadra di uomini. Ma che vuol dire? Nessuno mette in dubbio, cioè i rigori non si tirano col testosterone. Io che non sono, non seguo eccetera, faccio una modesta proposta per il futuro, bisogna guardare avanti a Ventura, che lui prepari delle sessioni proprio per dei rigoristi, cioè che prenda dei ragazzi allenati non solo fisicamente ma psicologicamente, training. Non però, devo sbagliare la porta. Però Giulio, posso? Non è vero, i rigori in quel frangente lì si tirano col testosterone, e lo racconta la storia. Prima è stato citato Di Bartolomei, in quella Roma lì dove Di Bartolomei li tirava tutti i centrali forti sotto la traversa e spaccava la porta ed era un mito. C'è chi la sera della finale, pur essendo un fuoriclasse, il rigore si è rifiutato di tirarlo. Si è rifiutato di tirarlo e poi si è preso un cazzotto dall'uomo di cui sopra. E quindi di che cosa parliamo? Io dico che tutta la serie di rigori dell'Italia sabato sera è stato un azzardo, compreso mandare a tirare chi l'ha segnato, come De Sciglio e Parolo, che in carriera non ha mai fatto gol. Perché De Sciglio e Parolo a testa avevano tirato un rigore e l'avevano pure sbagliato prima di arrivare in Germania. E invece sono arrivati lì e loro l'hanno segnato. Che devi fare, Giovanni? Cosa facciamo? Cosa fai? È stato tutto un azzardo, giocato così sul filo. E poteva andarci bene. Lui è arrabbiato, anche i tedeschi dovrebbero essere arrabbiati. In fondo ne hanno sbagliati 3, che sono troppi. E ha ragione Buffon a piangere, non ricapiterà mai più. Uh-huh. Di giocare contro una squadra che sbaglia 3 rigori su 5... e tu non riesci a vincere. Poi sui rigori le cose vanno e vengono, da noi spesso vanno, però è venuto anche un mondiale ai rigori contro la Francia, quindi è andata così. Allora vi faccio sentire una cosa e poi c'è un mio amico in linea. Vettel sempre leader di questo Gran Premio, da quando si sono fermati tutti quelli che lo inseguono. Rosberg sta arrivando, ha transitato 2.8 nel giro precedente con... posteriore destra, dalla dinamica che è arrivata improvvisamente, esplosione della posteriore destra. Safety car adesso. Ci deve provare adesso Lewis Hamilton, ci deve provare adesso, gli concede l'esterno Nico Rosberg, se lo prende tutto Lewis Hamilton, non molla la presa Rosberg, vado insieme attaccando il contatto, il contatto di nuovo, accompagnato fuori Lewis Hamilton che rientra come per prenderlo, e danneggiato la anteriore per Nico Rosberg, incredibile, incredibile, ancora una volta il contatto con l'ala rotta per Nico Rosberg che deve rallentare, Lewis Hamilton che passa, Lewis Hamilton che in modo incredibile, ci sarà da discutere di nuovo tantissimo, va a prendersi la vittoria nel Gran Premio d'Austria con Verstappen che si prende una favolosa seconda posizione, limita i danni la Ferrari con Kimi Raikkonen in terza posizione, sarà furioso, deve ancora arrivare, eccolo qua senza l'anteriore, Nico Rosberg arriva sul traguardo e chiude in quarta posizione dopo una gara magnifica. Come avete visto tutti, la gomma è esplosa e non so se si tratta magari di un taglio dovuto alla salita di un cordolo o che cosa, cioè in ogni caso questa volta lo dico, la sfortuna non ci vuol mollare. Questa non arriva bene, ieri si è corso in Austria, come è andata lo sapete, l'abbiamo ricordato. Leo Turrini, buongiorno! Volevo cominciare con le notizie del traffico, maestro Genta. Io però volevo sottolineare... sono fermo sulla Piero Cormano, sì, perché si è abbattuto sulla mia macchina il pallone calciato da Pellè. Ho perché io ero a Bordeaux sabato sera e finalmente è tornato sulla terra, hai capito? Quello di Pelle. Senti, ma prenderle due volte dai tedeschi in 16 ore è tanta roba. Comunque, cosa vuoi che ti dica? Io ti ripeto, siccome prima parlavate di rigori, insomma, essere sul posto faceva una strana impressione. Vorrei dire una roba, insomma, a proposito anche di Zazza, no? E l'ho visto prima che faceva l'autostop sempre sulla Piero Cormano e c'erano decine di automobilisti che tentavano di asfaltarlo, perché poi voglio dire, dobbiamo cercare giustamente anche di renderci sopra. No, se la portano dietro per tutta la vita questa. Sì. E d'altronde sai, poi bisogna dire una roba, se vai a battere un rigore come Totti 16 anni fa, fai il cucchiaio, fai gol, è una cosa. O Pirlo, quando eravamo contro gli inglesi 4 anni fa, all'altro europeo, no? Cioè, fai il colpo effetto, il numero, fai i progetti, il numero, e poi fai la figura dell'imbecille, è anche giusto che il popolo ti prenda in giro. Questo, io lo dico con tutto l'affetto possibile e immaginabile, però già adesso, siccome sento dire ah no, ma non bisogna esagerare, beh, insomma, no, non esageriamo, però via, sei andato a fare il ballo del qua qua e poi è andato così. Leo, però con Giovanni Capuano stavamo analizzando anche un po' di cose, di numeri, insomma, non è che i nostri abbiano avuto queste opportunità per tante volte nella loro carriera, e forse hanno fatto quasi il massimo, no? Ma sì, ma no, guarda che è stata una nazionale meravigliosa. Io trovo anche, devo dire, deprimente un vezzo italiota quello di voler sminuire quello che questi ragazzi hanno fatto, no? Hanno fatto un bellissimo europeo. Penso che voi a casa abbiate avvertito un'emozione crescente, sapevamo che non era una squadra straordinaria, però ci ha fatto innamorare tutti e io sono stato molto contento di partecipare a questa esperienza. Poi è chiaro che quando fai 1-1 sul campo con i campioni del mondo, vai ai rigori, al 18° rigore, perdi, ti brucia, no? Ci rimani male, è un po' come Vettel che gli scoppia la gomma, capito? Non è che dici ah, che bella cosa. Però insomma, lo sport è fatto anche di queste cose, bisogna sempre cercare di vedere, di sviluppare il negativo, come dice mia suocera, una vecchia fotografia, hai capito? Sviluppare il negativo. Sì, anche se adesso vanno molto di moda i criticoni. Guarda, c'è uno che ha scritto, Carlo da Pavia, lo citiamo, Conte è stato un pirla come Prandelli, non ha fatto turnover dopo la vittoria. Stiamo parlando il Pirla Prandelli, non è il Pirla del 2014, che magari possiamo anche discuterne, è il Pirla che ci aveva portato in finale nel 2012. Ma a parte che Prandelli è un grande allenatore, perché noi siamo anche un paese senza memoria, va bene, lasciamo stare. Ma voglio dire, Conte ha fatto il turnover, perché nella partita con l'Irlanda ha schierato 9 riserve. Noi siamo andati a giocare con i tedeschi che avevamo, da un punto di vista di energie consumate, una squadra un po' più fresca, proprio perché aveva sfruttato l'opportunità conquistata con le prime 2 vittorie e li aveva fatti riposare. Qui ormai poi l'ho detto prima, è il bello, vale per il calcio anche per la Formula 1, sono grandi passioni popolari, tutti si ritengono in diritto di dire qualunque cosa, però se rovesciamo i fatti, se c'è una nazionale che ha fatto il turnover all'europeo è stata quella di Conte, sì. Aveva 23 giocatori, sono scesi in campo in 22, a parte Marchetti, non lo so io, Comunque oggi è il lunedì dei rigoristi, tutti, anche quelli che l'hanno tirato all'oratorio in vita loro, e dei gommisti. E dei gommisti. Ecco, allora sui gommisti diciamo una cosa anche qui per gli ingegneri del lunedì, no? La strategia Ferrari, perché adesso c'è questa nuova grande teoria secondo la quale al muretto rosso sono tutti degli imbecilli, no? C'è questo ingegnere preso tra l'altro da Mercedes che si chiama Jock Clair, che adesso viene scambiato per uno shampoo, no? Dal nome, prima era un genio, non è vero, c'è la strategia, non c'entra niente con l'episodio di Vettel, le gomme potevano tenere, ci sono altri piloti che sono stati in pista più giri di Seb, lì o lui ha urtato un corpo oppure ha beccato un detrito. Quindi a me va bene se vogliamo sostenere, ma come, siamo a metà campionato, la Ferrari non aveva ancora vinto un Gran Premio, certo non erano queste le aspettative, perfetto, d'accordissimo, gli esiti sono inferiori alle aspettative, se volete anche largamente inferiori alle aspettative, però adesso sono anche dei cretini, no? Che fanno scoppiare la gomma Vettel. Non è vero, cioè Vettel il giro prima dell'esplosione ha fatto il suo miglior tempo, vuol dire che la gomma non era usurata, è stato un fattore esterno, potrebbe anche essere stato lui, ripeto, a urtare troppo violentemente un cordolo, lì bisognerà poi verificarlo sui dati, le eventuali immagini disponibili. Però insomma, noi adesso in Italia, io vi chiedo scusa perché sono in coda, traffico sulla Pero Cormaro, perché caso pallone di Pellè. Caso poi Pellè, ma siamo anche un po' portati a un disfattismo, no? Cioè qualunque cosa si faccia in questo paese c'è sempre questa necessità di sottolineare che siamo uno stuolo di bambei, ma insomma non è vero, insomma. Sviluppiamo il negativo, ecco, sviluppiamo il negativo, maestro Torrini. Certo che qualcuno vorrebbe, io ho ricevuto dei messaggi, mettiamo Conte sul muretto della, al muretto della Ferrari. Sì, No, beh, allora guarda, io insisto con la mia opinione, il problema della Ferrari innanzitutto non è chi guida la macchina. Faccio rispettosamente notare che Kimi Raikkonen ha gli stessi punti di Seb Vettel a metà stagione. E quindi rinnovano Vettel o no? Gli rinnovano il contratto? No, Vettel no. Vettel è grande questo. No, Vettel è bravissimo, è l'uomo che deve riportare il titolo a Maranello. Io penso su Raikkonen deciderà Marchionne. Se vuole darsi la zappa sui piedi prendendo Perez il messicano, avanti pure, per l'amor di Dio. Però l'ultimo problema che ha la Ferrari sono i piloti, no? Hanno gli stessi punti, tra l'altro grazie ai Pellè Zazza della Mercedes che ne fanno di ogni, cioè Hamilton e Rosberg. Se uno guarda i numeri della classifica, pur non avendo mai vinto una corsa, i nostri non sono messi malissimo, no, non hanno un distacco abissale. Il problema è che la macchina non è in grado di vincere. Quindi, per rispondere alla domanda sul Conte al muretto, qui non è una questione che dici dobbiamo crederci, motivare tutto il resto, qui è tecnologia. Noi stiamo vedendo che su qualunque circuito, con qualunque situazione anche meteo, comunque sono sempre davanti le Mercedes. Appunto. Tipo sabato in Austria, non so se avete visto, c'erano queste qualifiche mezze umide, bagnate, eccetera. Bisogna scegliere gli standard, esatto, venire fuori. Bene, ci sono 10 macchine, cioè, primo e secondo la Mercedes. Allora, la questione è che la Ferrari deve, a livello tecnologico, riuscire a portarsi a un livello più alto, fare una macchina che sia più veloce, certo. E forse dopo, con una macchina più veloce, sarà anche, diciamo così, meno difficile la gestione, quella che chiamano, certo, la strategia, la, no? La gestione da parte del muretto, perché sai, chiaro, com'è, stanno sotto così, è, allora è far la battaglia ai mulini a vento, ma tentano di inventarsi qualcosa, no. Ma certo. Scusa, torniamo a Italia-Germania, si fa male che dire, no? Che per me è uno dei migliori centrocampisti del mondo. Sì, quando gioca, quando gioca è sempre, sì, va bene, accettare che si rompe spesso, ma comunque è un gran giocatore. Lui si volta e c'ha Schweinsteiger da mettere su, no? Cioè Conte gli si fa male la sora Cesira del nostro centrocampo, De Rossi, no? Motta stava creando un intasamento perché era troppo lento in centro a Bordeaux, si era creata la coda perché va piano anche quando cammina, si gira e chi c'ha? Sturaro, che con tutto il rispetto voglio dire, non è che sia il veterano Schweinsteiger. Però, l'amico Löw non aveva a casa tre quarti del suo centrocampo, persi prima di partire, Conte si sarebbe girato trovando solo Sturaro. Allora torniamo al discorso di prima, che è stato un grande europeo della nostra nazionale, e speriamo che la Ferrari, dato che abbiamo sempre questi tedeschi tra i piedi, prossimamente se la faccia arrivare adesso, dove adesso tutti che si sono tolti la scimmia dalla spalla anche nel calcio, chi li tiene più? Non li tiene, non ci hanno battuto nemmeno questa volta. Neanche da campioni del mondo contro un'Italia. Perché avevamo Conte, ha ragione Leo, però insomma, neanche così ci hanno battuto. I soliti tedeschi, nemmeno così. Leo, grazie. Un grande abbraccio, ti aspetto prestissimo. Bene, ciao. Molto ciao Leo Torrini. Ciao, Alessandro, ciao. Buongiorno. 5 minuti, due ascoltatori. Buongiorno. Perdonatemi, ma Pellè che fa lo scavetto con mezzo mondo che scommette in diretta in Asia e poi tira la palla un metro fuori, veramente, o è scemo, o è scemo. perdonatemi il termine, ma guardate, è indifendibile, assolutamente indifendibile, fa venire pensate mille cose, guardate. Bah, tranne il pensiero che se l'era venduta, però almeno quello lo possiamo togliere, no? Eh beh. Però è sempre... si può pensare di tutto, sì, quando un progetto capito, capito, ma di tutto tranne quello, tutto tranne quello, perché siamo in diretta, perché... dobbiamo dire tranne quello, no, certo. No, anche in differita, anche nel podcast, anche quando poi è uguale, anche in differita registrato, anche fatto, per iscritto, non va fatto e basta. Non va fatto e basta, per rispetto di tutti. Sì, ma Alessandro... gli scommettitori c'entrano pochino, perché non saprei che cosa possano centrare in questo discorso gli scommettitori. Il discorso è che, stando con Aldo Serena, vai a capire cosa succede nella testa di un giocatore in quel momento lì. Guarda, c'è un amico, Roberto, che scrive che i tedeschi sono stati geniali. Sapendo che noi non avevamo persone in campo di grande personalità, hanno scelto di farci battere guardando la nostra curva per aumentare la pressione. In realtà oggi Schweinsteiger l'ha spiegata, che era stata sorprendente la scelta di mandare a tirare i rigori sotto la curva degli italiani, e ha detto: mi sono ricordato che io ho perso una Champions tirando un rigore in faccia ai miei in casa con il Bayern di Monaco contro il Chelsea, e che anche gli svizzeri erano usciti contro il Portogallo, i polacchi, tirando sotto la propria curva. Quindi in realtà dietro quella cosa lì c'è stato un ragionamento, però vedete com'è il calcio e lo sport e la vita. Se la Germania fosse uscita, a Schweinsteiger avrebbero fatto un mazzo così, perché si era, avendo vinto il sorteggio, aveva regalato il vantaggio agli italiani. Aveva regalato il vantaggio curva agli italiani. Marcello, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io volevo parlare di Conte. Fra sì. le... Allora, sono tifoso juventino, ammiro Conte, e per me nel campionato europeo non ha sbagliato quasi niente. L'unico appunto che mi sento di fare proprio in maniera veramente forte è aver tenuto due uomini in più che avevamo in panchina fino alla fine del 120esimo tempo supplementare. Se fossero entrati due, Insigne e un altro, freschi, nell'ultima mezz'ora, secondo me l'esito poteva cambiare senza arrivare ai rigori, perché sappiamo che i rigori è una lotteria. E poi, per quanto riguarda i rigori, e poi ho concluso, lui quando ha scelto i rigoristi, a tutti doveva fare il fervorino e dire: state concentrati, non guardate il portiere, non guardate niente. E allora forse quei due che hanno sbagliato non avrebbero sbagliato. Mi sa che lo io sanno. Quel pizzico di concentrazione in più. Ma concentrazione, mancare di concentrazione in un momento così non credo. Sono stati errori tecnici, errori di emotività, errori di inesperienza, o non lo so se vuoi aggiungere qualche altra sono stati caratteristica. Errori. Ne ha fatti tanti anche la Germania, e noi ne abbiamo fatto uno in più. E ricordiamo che una settimana fa Messi, ripeto, si è fumato la Coppa America sbagliando un rigore, ed è Messi, e qualche rigore l'ha tirato, quindi può succedere, ma domani torniamo a parlarne, eh? Io credo, ne avete una gran voglia, lo faremo, ampio spazio per tutti voi cari convocati domani. Grazie Giovanni Capuano, grazie prossima. A te, alla prossima. Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani. Che spettacolo, da brividi.